La mia impressione è duplice. Da una parte, come tutti, sono ovviamente colpito dalla gravità della cosa, dal punto di vista della sua estensione, più che dal punto di vista del numero delle vittime. Per carità, non voglio essere cinico, però abbiamo visto altre epidemie ben più gravi dal punto di vista della mortalità. Qui la gravità della situazione è determinata dalla virulenza di questa malattia e quindi dal rapporto che impone tra popolazione e servizio sanitario, che non è in grado di rispondere alle esigenze di una malattia che imperversa. Ma non è la peste nera del 1630 o del 1348 e non è nemmeno la SARS. Tuttavia la sua estensione e la sua virulenza hanno una dimensione planetaria. La seconda sensazione è invece di scoramento e di irritazione. Possibile che cadiamo dalle nuvole su una situazione tanto grave? Possibile che le misure vengano adottate in ritardo e in modo disordinato? Soprattutto di fronte a tutto questo, è possibile che la reazione sia quella di irresponsabilità nei confronti della complessità? E qui la prima considerazione: viviamo in un mondo che non è capace di avere una prospettiva complessiva, intendo dire un mondo intellettuale, un mondo politico. Parliamo di Italia. In Italia non si ha la capacità di avere una visione d'insieme e non si ha la capacità di avere un respiro strategico di periodo medio e di periodo lungo. E lo vediamo esattamente di fronte a questa malattia. Non credo che sia corretto sollevare questioni mentre le cose stanno accadendo. Esiste un grande problema che è, diciamo, di tipico della democrazia: quando c'è l'emergenza non bisogna discutere, ma bisogna a testa bassa eseguire ciò che è necessario. È vero, ma la democrazia è quella cosa che deve vivere sempre, non è che si può sospendere temporaneamente. E allora siamo in un momento nel quale possiamo anche discutere ciò che sta accadendo, tanto più che chi sono impegnati sono i medici e il personale sanitario. Gli altri, diciamo, che hanno un po' più tempo libero che prima e quindi potrebbero a maggior ragione impiegarlo per studiare e riflettere. E allora la prima considerazione è che siamo partiti in ritardo, mettendo questa crisi su una situazione già di difficoltà. Siamo partiti in ritardo, non lo dico io, lo dicono grandi studiosi, lo dicono osservatori. Abbiamo visto delle norme contraddittorie. Il 24 febbraio in Emilia Romagna si sono chiusi tutti i luoghi culturali tranne le biblioteche. Ora le biblioteche sono i luoghi nei quali c'è la maggiore contiguità tra le persone, per cui c'è stata un'altra settimana nella quale le persone sono state in stretto contatto, mentre i musei erano chiusi, dove notoriamente nei musei c'è meno pubblico. Contraddittorietà e ritardi che si innervano però su un sistema già in crisi, che è quello di una sanità che in 10 anni ha cancellato 70.000 posti letto, che ha una carenza di 8.000 medici e 35.000 infermieri come minimo, ma che è soprattutto, e ciò che è peggio, ha fatto parte di quella grande tendenza tipicamente neoliberista alla aziendalizzazione e alla privatizzazione, quindi esternalizzazione di servizi, e una gestione che deve essere basata sulla buona rendimento economico. Questo è uno dei grandi temi della nostra storia. Non voglio qui giocare alla sinistra radicale che grida contro il liberismo e il capitalismo selvaggio. Non è questo il punto. Il punto è che il nostro mondo ha progressivamente rinunciato, almeno negli ultimi 4 decenni, progressivamente ai principi del liberalismo. Qui non si tratta nemmeno di parlare di socialdemocrazia scandinava, si tratta di principi elementari di liberalismo: la progressività della tassazione, la spesa pubblica, i servizi essenziali e il dettato costituzionale. La nostra Costituzione, che tutela la salute, articolo 32, prevede che questa sia tutelata per tutti in egual modo, e noi invece abbiamo un sistema che progressivamente ha inserito le visite private e gli esami anche in tramenia, per cui noi oggi siamo in un mondo nel quale una persona che ha bisogno di fare un esame importante, se non è urgentissimo, a rischio, deve aspettare molti mesi, mentre se lo fa privatamente lo ottiene subito. Lo stesso vale per le visite specialistiche. Siamo in un sistema nel quale è estremamente difficile avere quelle garanzie costituzionali. Un esempio: i ticket. I ticket si chiamano contributo alla spesa sanitaria nazionale. In realtà costituiscono il 4% circa della spesa nazionale sanitaria, quindi concorrono per pochissimo a questa spesa, ma in realtà possono essere un ostacolo per una società in via di progressivo impoverimento, perché i ticket cominciano ad avere un un costo che per alcune persone è faticoso da sostenere, per persone sempre più numerose. Allora, questa crisi si innerva su questa situazione. Poi diciamo anche le cose positive. Alcuni sistemi sanitari del nostro paese hanno saputo reagire meglio di altri, hanno saputo reagire bene. Non c'è dubbio che in Emilia Romagna il sistema sanitario ha reagito positivamente, ha reagito meglio che le Marche o la Lombardia, per esempio, dal punto di vista della capacità di attrezzare in tempi brevi posti letto in terapia intensiva, la capacità di avere un maggiore controllo della quantità di persone a rischio e delle persone malate. Non c'è dubbio, ma questo è avvenuto in ritardo. Questo ci sposta però su un'altra questione, quella del rapporto Stato-Regioni. Non si può oggi, così, sui due piedi, pretestuosamente, rimettere in discussione il rapporto tra Stato e Regioni, rimettere in discussione il titolo quinto della Costituzione. Il punto non è se in tempo di guerra ci deve essere un comandante unico e le regioni devono obbedire o se le regioni vanno ognuna per conto proprio. Su questo la legislazione è abbastanza chiara. Ci sono delle situazioni nelle quali la decisione deve essere centrale dello Stato e ci sono situazioni nelle quali l'autonomia delle regioni consente la flessibilità del sistema a seconda delle situazioni locali. Certamente il titolo quinto, così come è stato riformato nell'anno 2001, presenta dei problemi, ma si tratta di affrontarli valorizzando il dettato costituzionale delle autonomie regionali, non mettendo in discussione tutto in due minuti.